Non vorrei sembrarvi il solito bastian contrario, ma francamente non riesco a condividere l'angoscia che ha invaso i media da quando il Presidente del Consiglio, irritato da una vignetta del disegnatore Forattini, lo ha denunciato per diffamazione e calunnia, chiedendo un'ingente cifra a rimborso dei danni subiti. Io per una volta, sia pure con riluttanza, mi sento dalla parte del Presidente. E non per motivi di simpatia e antipatia, vi assicuro. Forattini, non ho difficoltà ad ammetterlo, mi è antipaticissimo. Come mi sono antipatici tutti gli opportunisti che negli anni 70 attaccavano da sinistra al PC di Berlinguer perché così andava il mondo e alla fine degli anni 90 attaccano da destra ai DS di Bertoni e D'Alema, che lo ammetterete un po' come sparare alla Croce Rossa. Ma forse in tutti quest'anni gli ascoltatori avranno compreso che neanche per l'onorevole D'Alema stravedo. E non saprei proprio perché dovrebbe interessarmi uno scontro tra tali campioni e se qualcuno non ne avesse fatto incautamente la pietra di paragone della libertà di satira nel nostro paese. Perché il problema non sta nel fatto che Forattini in pratica abbia accusato D'Alema di aver censurato gli elenchi del dossier Mitrokhin e che questi neghi di averlo fatto e si senta quindi calunniato. È ovvio che chi accusa qualcuno di qualcosa si assuma tutte le responsabilità relative, comprese quelle penali. Il problema, semmai, sta nella pretesa generale di esonerare da quelle responsabilità chi esprime l'accusa in forma di satira. Partendo dal principio ragionevolissimo per cui la satira deve essere libera, se no che satira è, si arriva alla conclusione, svolta tra gli altri dall'ottimo Gad Lerner sulla Repubblica di venerdì, che D'Alema certamente non ha censurato alcunché di Onescampi, ma che Forattini ha fatto bene lo stesso a pubblicare la sua vignetta. Una conclusione che non può che convenire a chi sia d'alemiano o oltranza e scriva comunque sullo stesso giornale per cui Forattini disegna, ma che può lasciare perplessi quanti si trovano in una diversa situazione. Capirete, estendendo il principio se ne ricaverebbero dei corollari strani. Si potrebbe sostenere, per esempio, che se io, allo scopo di stroncare la carriera in radio popolare del nostro Cristiano Valli, scrivessi da qualche parte non solo che è un infiltrato al soldo di Radio Maria, ma che usa nella vita privata prendere a calci le vecchiette e molestare i bambini, costui avrebbe tutto il diritto, oltre che di querelarmi, di prendermi a sberle. Ma se esprimessi gli stessi concetti in una o più vignette satiriche, potrei fargli marameo sicuro dell'impunità. E ammetterete che in tutto questo c'è qualcosa che non funziona. Il fatto è che il concetto di satira e quello di verità, per imprecisi e relativi che siano, non sono così completamente estranei l'uno all'altro. La satira, anzi, è stata inventata proprio allo scopo di dire la verità, o almeno quella che il satirico sosteneva fosse tale. E i poeti della commedia attica antica, a cui Orazio, come ricorderete, fa risalire il genere, e sicui serat dignus describi quod malus acfur, quod mecus foretot sicarius autari occhi famosus multa, con libertate notaban, che vuol dire che se uno meritava di essere attaccato perché furfante, ladro, donnaiolo o per altri versi infame, lo bollavano con molta libertà. Satire, quarta, 3-5. Certo, lo facevano in un certo modo indiretto per poter dire la loro verità senza subire le conseguenze che chi dice la verità talvolta in un mondo imperfetto possano capitare. La satira, in un certo senso, è un genere spurio. C'era la verità dietro uno schermo più o meno trasparente di non verità. Ad Aristofane, che lo accusava di essere guerrafondaio e autoritario, Cleone non poteva far causa perché quelle accuse ostensibilmente non erano rivolte a lui ma a un certo Paflagone che gli assomigliava come una goccia d'acqua. Ma tutti sapevano che Cleone in effetti era guerrafondaio e autoritario e su questo in ultima analisi si è sempre fondata la multa libertas degli autori satirici. La libertà che la satira si è guadagnata nei secoli dipende in ultima analisi da quel tanto di verità che ha saputo incorporare. E se chi fa satira della verità decide di non preoccuparsi, non può invocare nessun particolare privilegio di genere. I privilegi di genere nascondono sempre una contraddizione che non si vuole risolvere. Io non so se ricordate i tempi in cui si perseguitavano gli scritti e le immagini contrarie alla pubblica decenza, no? Vi si perseguitavano, ben inteso, a meno che non si decidesse di riconoscervi un non meglio precisato valore artistico. Oggi non si usa più. Ma non perché l'arte si sia diffusa a macchia d'olio, il fatto è che abbiamo eliminato alcune contraddizioni, mica tutte ma qualcuna, relative alla nostra morale sessuale. Guardate che non intendo sostenere a spada tratta che D'Alema non abbia censurato gli elenchi del dossier Mitrokhin. Giuro che non lo so. Sono anche d'accordo sul fatto che i leader politici dovrebbero difendere la propria onorabilità con altri mezzi che non le denunce penali e le richieste di risarcimento. Ma ritengo che chi muove un'accusa deve avere come minimo il coraggio civile di confermarla se richiesto. Non può limitarsi a dire a me che me ne frega, io faccio della satira e basta. Poi naturalmente ciascuno difende se stesso, i propri amici, il mestiere che fa, nulla da eccepire. Ma ho sempre avuto l'impressione che limitandosi a difendere la propria libertà personale o di gruppo, e non quella di tutti, non si faccia poi molta strada.